E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Continua la catena alle interviste e stavolta dalla zona Rodigino-Mantovano-Padovana arriva una giovane band che presenterà il suo nuovo CD. A voi le presentazioni, ragazzi. Ciao a tutti, noi siamo i Silenzia. Io sono Cassandra, la cantante. Io sono Gianluca Resi, il batterista. Daniele, chitarrista. E Costantino, il bassista. E fra di noi c'è anche Elia, però purtroppo stasera a casa con la febbre. Lo salutiamo, ciao Elia. Buona guarigione allora. Con i Silenzia ci immergeremo nella prima parte nell'adulto oriented rock di fine anni 70 inizio 80. Prima canzone ascoltata era Rubicon dei Journey, storica formazione statunitense che nel 1983 l'ha incisa nel disco Frontiers, uno degli ultimi prima della temporanea separazione qualche anno dopo. Una band storica che in Italia si avrà occasione di vedere per la prima volta in assoluto live il 21 giugno all'Arena Fiera Milano di Rho e che ha sempre emozionato per la sua bravura e tecnica. Che ne pensate? Beh, una melodia strumentale e vocale molto aggressiva che ne fa un punto di forza per il carattere e l'identità del gruppo, quindi credo che i biglietti per il 21 andranno sicuramente in sold out. E i Silenzia sono assieme da 3 anni, ma ognuno di voi ha già alle spalle una serie di esperienze musicali. Come vi siete formati e qual è l'idea che ha fatto scaturire il nome? Allora, noi ci siamo formati nel 2007, praticamente io e Gianluca, il batterista, abbiamo cominciato a suonare e a comporre brani strumentali sul genere metal, e poi abbiamo iniziato la ricerca per gli altri componenti della band. Abbiamo quindi trovato Costantino, poi Elia, e Cassandra è stata l'ultima che si è aggiunta. Per quanto riguarda il nome, ci piaceva il suono della parola, tutto qua. Andiamo avanti con gli Asia, formatisi nei primi anni 80 dall'unione di musicisti appartenenti a storiche formazioni prog. Con il primo disco Asia del 1982 ottiene già un grande successo. Da quel disco la canzone Here Comes the Feeling. Grandi nomi in questa band, da Steve Howe fino a John Wetton e Carl Palmer. Storia breve, ma idee e sonorità che hanno influenzato gli artisti rock a venire. Che ne pensate? La prima cosa che salta all'orecchio a proposito delle influenze nei gruppi a venire è la somiglianza tra l'introduzione di questo brano e quella di Jump dei Van Halen di due anni più tardi, che, tra parentesi, è anche nella stessa tonalità. Al di là di questo, molto interessante il timbro vocale, cristallino ma ricco anche di armoniche gravi. Brano ricco di diversi cambi tempo, quindi con particolare gusto da parte del batterista, come anche per basso e chitarra, direi poche note ma molto ricercate, quindi sicuramente un grande gruppo che ha prodotto un ottimo lavoro. Vostre esibizioni, come sono andate e quali le impressioni che avete raccolto dal pubblico? Ah, finora abbiamo avuto un buon esito, devo dire, sì, perché comunque andando fuori e portando pezzi nostri non è facile avere sempre delle soddisfazioni. Le persone sono molto abituate a sentire cover. Le solite cose, insomma. Esatto, ecco. Esatto. Ci si ritrova sempre a dire queste cose perché è la triste realtà della musica. Concludiamo dunque questa prima parte con i Foreigner. Saranno anche loro live assieme ai Journey e a Raw il 21 giugno con l'attuale formazione, ma ora li ascoltiamo dal disco Double Vision del 1978 con il classico Hot Blooded. A dopo per la seconda parte.